Il punto di Stefano Folli. Beppe Grillo prosegue nella sua particolare campagna elettorale per le elezioni europee e a modo suo riesce a occupare le prime pagine dei giornali, ma dov'è la freschezza imprevedibile del personaggio istrionico che un anno fa sedusse gli italiani? Ora tutto è più cupo, violento e persino triviale. Non è tutta colpa di Grillo, bensì di un movimento che sta dimostrando i suoi limiti di maturità politica e anche di rappresentanza. Nel frattempo gli altri si organizzano, ma il fatto sorprendente è che Forza Italia, centrodestra, è più avanti del centrosinistra nel piegare a proprio vantaggio le opportunità della nuova legge elettorale, peraltro ancora da approvare. Berlusconi sta ricostruendo in modo del tutto spregiudicato, anche con Casini, una coalizione numerica, non certo politica, in grado di raggiungere la famosa quota del 37%. E Renzi deve puntare ormai solo su se stesso, un PD renziano, appunto, che da solo o quasi arriva alla stessa soglia e batte la destra. Renzi ha dalla sua l'effetto novità. Fu l'asso della manica di Grillo un anno fa. Basterà questa volta?